την άφησή μου, που με προσεστούν το αίτιο, το αίτιο με σούρξε. Di continuità. L'altro esempio naturalmente che viene in mente è quello dell'Iraq, però lì le sfumature e il diciamo la complicazione della faccenda anche per le dimensioni sono diverse. Tuttavia c'è un'interessante relazione tra il Libano e Hezbollah e tra il Libano e l'Iraq, che è quello che entrambi sono paesi plurali, il Libano in modo ancora più accentuato rispetto all'Iraq, essendo un paese piccolo ma con un altissimo grado di biodiversità culturale, date le comunità religiose di varie sfumature di Islam e varie sfumature di cristianesimo che vivono in quel territorio, ed è un paese in cui è stata sperimentata ed in parte è fallita la tattica della frammentazione etnica per controllare le varie comunità e controllare, diciamo, strategicamente da un punto di vista geopolitico ma anche economico il paese stesso. È lo stesso tipo di tecnica che in parte viene applicata in modo fallimentare, in parte purtroppo sta riuscendo in Iraq, e che diciamo in un certo senso l'aggiornamento di quello che è successo con la Jugoslavia e di quello che è successo in realtà in Medio Oriente dalla fine dell'impero ottomano in poi, cioè una continua frammentazione con confini spesso arbitrari come sono quelli per esempio tra l'Iraq e la Giordania, che sono tracciati così con la squadretta, o tra l'Arabia Saudita e l'Iraq, eccetera eccetera eccetera. Il Libano è il fallimento della divisione comunitaria, che in realtà è costata molti morti e molta distruzione nel paese durante gli anni della guerra civile, rimandano a quello che sta succedendo in Iraq, dove però chiaramente gli interessi, sia soprattutto per la presenza del petrolio e per la presenza diretta dell'esercito americano, sono in parte diversi. Eppure lì questi due paesi si parlano, non solo per il ruolo degli sciiti, maggioranza in Iraq e presenza politicamente forte, anzi probabilmente anche maggioranza in Libano, dato che i dati del censimento, maggioranza relativa, soprattutto i numeri delle appartenenze libanesi non si sanno ufficialmente, quindi questo contatto fa sì anche che il Libano sia di estrema attualità oggi, e che quindi capire il percorso di una formazione come Hezbollah diventa essenziale per capire il Libano, e quindi per capire quali possono essere i meccanismi per disinnescare questo tipo di spirale che invece sembra esserci sempre più imposta non solo da Washington ma diciamo dai centri di potere occidentali. Il libro di Walid è estremamente interessante da questo punto di vista, perché credo abbia due doti principali. Il primo è la densità e la profondità della conoscenza dell'argomento. In Italia sono credo 3 o 4 i libri usciti su Hezbollah negli ultimi anni, e credo che questo sia il migliore. Ce n'è uno scritto da un giornalista della RAI che è terrificante. Ne è uscito un altro poche settimane fa che è anche abbastanza valido, però qui c'è, diciamo, una profondità, una conoscenza della materia che gli altri non hanno. E poi ha un'altra dote essenziale che spesso manca in libri così, che è quello della chiarezza, cioè non c'è bisogno di essere degli esperti della storia del Medio Oriente per capire l'analisi di Walid, è chiaro per fortuna. E questo è un altro punto che lo rende estremamente, estremamente interessante. Detto questo, ho messo forse anche fin troppa carne al fuoco, io mi defilo e cedo la parola a Omeya, che naturalmente potrà precisare meglio, anzi potrà pure correggere ciò che ho detto, pregandolo soprattutto di fare, se può, di cercare di raccontarci quello che sta succedendo oggi in Libano. Perché c'è un paradosso che, diciamo, da operatore dell'informazione io noto, cioè tutta l'estate naturalmente si è parlato di Libano, Libano, Libano. A settembre ancora un po' di Libano, ma già c'era qualche cosa che cambiava. Credo siano un paio di mesi che in Italia non esce un articolo sui giornali grandi sul Libano. Cioè non si capisce, salvo se non quando c'è un articolo che dice le proteste, ma non si capisce perché, chi, come. Anche la conferenza di Parigi è stata trattata così en passant, dicendo grandi promesse per la ricostruzione del Libano. Cioè il Libano è tornato in quella zona grigia in cui i giornali italiani relegano soprattutto le cose internazionali, e poi ovviamente non si capisce quando succede qualche cosa che arriva fino alla prima pagina. Per questo credo sia anche abbastanza interessante, lo dico anche egoisticamente perché mi serve, sapere come tutto questo tipo di fermenti stia adesso maturando all'interno della società libanese e quindi come si riverbera anche sul sistema politico. Grazie. Allora, buonasera, assalamu alaikum. Io ho qualche difficoltà perché il mio italiano non è così buono. La seconda cosa è che Walid, che vi presenta le sue scuse veramente a tutti, c'è stato un problema di ultimo minuto, alle 4 di mattina l'ho saputo io, che gli ha impedito di venire. E dunque la sua assenza mi mette anche un po' in difficoltà, perché il libro è suo, anche se lo conosco bene. Ma sono più di 20 anni che mi mette in difficoltà, assai spesso. Dunque, sì, proveremo a parlare di questo, però ci sono dei punti, credo, che sono importanti per capire quello che sta succedendo. Le particolarità del contesto libanese sono importanti di capire. Il Libano è un paese, come hai detto tu, che è assai particolare, che è un piccolo paese, un po' più di 4 milioni di persone, con un numero enorme di persone emigrate, c'è una diaspora enorme, con 17 comunità ufficialmente ci sono 17 comunità confessionali o etniche recensite. Questa cosa è importantissima perché non è un censimento che ha un valore sociologico solo in Libano, ha un valore politico e questo è costitutivo del sistema politico libanese. Il sistema politico libanese dal ritiro del protettorato francese, dunque dall'indipendenza, e questo è stato anche lavorato e preparato dai francesi prima di ritirarsi, è un sistema basato su il confessionalismo, si dice, o comunitarismo. Questo vuol dire che tutto in Libano è organizzato sulla base di quota per comunità, tutto, dall'alto della piramide del potere fino alle cose più piccole di quartiere. In Libano il presidente deve essere cristiano maronita, non può essere altra cosa, per costituzione, per legge. Il primo ministro per legge deve essere musulmano sunnita, il presidente dell'assemblea del popolo deve essere musulmano sciita, e poi ci sono delle quote di deputati, di ministri nel municipio, tutto, come si dice, tutte organizzazioni di Stato, nelle cose pubbliche, tutto funziona così, anche i quartieri. E questo ha fondato un tipo di Stato assai particolare, che è uno Stato basato su questo e su, dunque, una specie di clientelismo comunitario che determina quasi tutto nel paese. E questo comunitarismo non esce di quello che è la regola dappertutto. E anche questo è determinato da rapporti di forza sociali, economici, e quando cambiano i rapporti di forza ci sono delle crisi, dei cambiamenti. Per andare molto veloce, perché è una cosa molto complessa e sarebbe lungo parlarne, all'inizio, fino, diciamo, agli anni, fino alla guerra civile, fino alla guerra civile c'era, diciamo, una egemonia di due comunità, o di due comunità principali che erano la comunità maronita e la comunità sunnita. E un po' tutto procedeva da compromessi e da equilibri, principalmente da questi due e poi secondariamente dal resto della popolazione, sapendo che a livello del numero questo non rifletta esattamente la composizione sociale del Libano. Per esempio, la comunità sciita è stata una comunità importante, forse la più importante, non è la maggior parte della popolazione libanese, però è la più grande, credo, comunità. E questa per molti anni, molte decine d'anni, è stata più o meno marginalizzata dal potere politico, dove il potere più importante era maronita, e anche dal potere economico, dove i sunniti erano quelli che controllavano di più, diciamo, i circuiti commerciali in un paese in cui non c'è produzione né di risorse naturali né industriale importante di niente, un'economia di commercio, servizi soprattutto. E una delle novità importanti è questo processo di salita della comunità sciita, che ha iniziato, diciamo, un pochino negli anni 70, poi nella guerra, e adesso è una comunità che pesa, non è più che ha un suo peso, un peso importante, e questo ha fatto dei problemi negli equilibri di potere. Dunque, il Hezbollah non è veramente nato solo di questo, neanche principalmente di questo. Se possiamo dire che c'è un'organizzazione che è l'espressione di questa promozione dei sciiti nel Libano, sarebbe piuttosto Amal. Amal è veramente un'organizzazione che è nata, un'organizzazione che è un'organizzazione comunitaria, di cui il principale oggetto è di promuovere il peso dentro il sistema libanese, senza rimettere in causa il sistema di condivisione del potere, secondo le quote comunitarie, di acquisire un peso più grande per la comunità sciita. Il Hezbollah è venuto dopo. Hezbollah è venuto dopo con altre cose. È venuto dopo anche contro il modello Amal. Il Hezbollah ha una particolarità, il Libano è, non solo il Hezbollah, anche il corrente patriottico libero di Michel Aoun, non ha partecipato direttamente nella guerra civile, ha fatto questa cosa contro i siriani a un momento, però l'Hezbollah non ha partecipato come le altre organizzazioni alla guerra civile, nel senso non è stato un protagonista dentro i massacri fra libanesi, e questo fa che gode di un rispetto anche da quelli che non sono d'accordo con lui né teologicamente né politicamente, che non ha sulle mani molto sangue di altri libanesi, al contrario di del partito druso, del partito falangista, del partito eccetera eccetera eccetera. Perché è nato, ok, è un partito sciita, non è un partito laico, è un partito nato come un partito sciita, però è nato per in seguito e per costruire una resistenza. Non è stato il primo, c'è stata una resistenza prima dell'Hezbollah, c'è stata la resistenza nazionale libanese, composta principalmente di comunisti, Partito Comunista e altre due organizzazioni marxiste. C'è stata anche una breve piccola esperienza di resistenza sunnita che si chiamava Kedeb al-Fajr, che è stata poi alleata con Hezbollah. Dunque, i principali funzioni erano la resistenza ad Israele. C'era anche una determinazione anche sociale importante che viene anche di prima, di un movimento che si chiamava il movimento dei dominati o dei poveri, non so come tradurre, perché anche se adesso non è più completamente vero, i sciiti erano l'essenziale dei poveri in Libano a una certa epoca. E poi anche di determinazione internazionale, c'erano collegamenti con il partito Dawa di iracheno, dunque. E dunque è nato come un partito con obiettivi, molti obiettivi di resistenza all'occupazione e anche di sociale. E dunque di costruzione di tutta una rete sociale, di tutto un settore non marchand, non mercia. Sì. Dunque. E dunque questa cosa va fino agli anni 90, dopo la guerra e tutto questo. Quando è finita la guerra civile c'è stato un compromesso che ha stabilito e pacificato, diciamo, il Libano. E questo compromesso era basato sui rapporti di forza in Libano, nella regione a livello internazionale. Questo compromesso, la guerra si è fermata con, diciamo, un compromesso non esplicito di neutralizzazione del Libano, e l'uomo del compromesso era Rafik Hariri. L'incarnazione di questo compromesso era Rafik Hariri. Rafik Hariri era legato completamente all'Arabia Saudita e agli americani attraverso l'Arabia Saudita, però aveva ottimi rapporti anche con la Siria. Per anni i suoi rapporti con la Siria sono diventati un po' brutti questi ultimi tempi, un po' prima di morire, e non del fatto suo, anche aveva pressione enorme dai suoi padrini sauditi e americani per rompere i rapporti con i siriani. E questa era una decisione americana, chiaramente. Gli americani hanno deciso, dopo l'11 settembre e dopo l'esperienza irachena, che non vogliono più permettere compromessi che permettono il mantenimento di fuochi di resistenza importante nelle regioni, di resistenza sia di resistenza reale, popolare, o di resistenza istituzionale, che forse resistenza non è la parola giusta, di, in arabo si dice imtina, di rifiuto, di non sottomissione completa, di no, per esempio la Siria è un paese che non ha problemi per sottomettersi agli americani, a volte ha partecipato alla guerra, prima guerra sull'Iraq con truppe, però non completamente, è pronta a sottomettersi in parte, però non completamente. Adesso gli americani vogliono paesi completamente sottomessi. E dunque hanno spinto verso l'esplosione, la fine di questo equilibrio, e hanno avuto l'appoggio determinante dei francesi, perché i francesi hanno un certo peso in Libano. E i francesi hanno vissuto l'esperienza irachena malissimo. I francesi considerano che la loro posizione di rifiuto un po' della guerra, l'ultima guerra con l'Iraq, gli è costato moltissimo. Hanno perso tutti i contratti, gli americani hanno fatto in modo che non prendono niente, non prendono più niente, sapendo che i francesi avevano moltissimi contratti con l'Iraq di Saddam, e che sono stati isolati anche in Europa, anche dentro Europa hanno avuto, e dunque hanno deciso di fare una svolta di 180 gradi completamente, dice, con la logica che se noi andiamo con gli americani completamente sul Libano, e Libano e la Siria li considerano come una competenza loro, e che riescono a avere il stesso ruolo dei britannici, che i britannici hanno avuto in Iraq, potranno avere un pezzo importante della torta da parte degli americani. E dunque da questo è nato la risoluzione 1559, che dice che i siriani devono andare subito, che dice che la resistenza deve essere disarmata, e questo è stata l'espressione della rottura del compromesso e l'inizio e la nascita reale della guerra. Infatti era l'appello della guerra israeliana dell'estate scorso, era una guerra di applicazione della risoluzione. La risoluzione ha detto che si deve fare questo non si poteva fare così, solo con la convincendo i libanesi, e dunque il braccio armato di questa risoluzione doveva essere l'esercito sionista. Ecco, la rottura di questi equilibri hanno fatto una situazione più o meno aperta in Libano. Aperta non vuol dire, non è una parola positiva o negativa, aperta non so, boh. Ecco, con moltissime determinazioni internazionale e regionale, e c'è stato un schieramento a livello politico, della classe politica, assai chiaro, di un campo che ha scelto di essere alleato ai Stati Uniti d'America e diciamo degli alleati suoi, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, e un altro campo che, rifiutando questo, si è ritrovato alleato o volontariamente o no, o alla Siria e all'Iran, che sono i due stati di che non sono sotto gli unici che non sono ancora completamente sottomessi ai Stati Uniti d'America nella regione. Ci sono cose molto importanti da capire, che sono veramente determinanti. Non so, per esempio, moltissimi credono, e io credo, che fra poco, diciamo, gli antagonismi principali, non per forza militari, convolgeranno gli Stati Uniti e la Cina, per esempio. Nella regione, che è la regione di più grande riserve di energia utilizzabile nel mondo, l'unico paese della regione da cui la Cina o altre potenze possono comprare del petrolio senza essere completamente dipendente dagli americani è l'Iran. Gli Stati Uniti, per esempio, per gli Stati Uniti c'è una cosa importantissima, è il fatto di mantenere è l'unico modo per mantenere, diciamo, l'unicità della loro egemonia, il monopolio assoluto di questo, e per esempio sapendo che il sviluppo dell'armamento, dell'economia della Cina, normalmente se continua può diventare realmente un problema per l'egemonismo monopolista americano, un problema. Non è che faranno la rivoluzione o, non so, faranno un mondo più giusto, però diventa un concorrente serio, e questo concorrente deve rimanere dipendente energeticamente. Per ora può comprare dall'Iran. Ci sono dei conflitti enormi, per esempio nel Golfo di Guinea, nel Sudan, dove sappiamo che ci sono delle riserve potenziali enormi in queste regioni. Se andate in queste regioni, anche in Algeria, c'è un numero di cinesi incredibile, e c'è una presenza e un'attenzione militare americana enorme. Questa guerra di bassa intensità o di intensità non visibile c'è dappertutto. Nella regione c'è il fuoco, diciamo, il fuoco diretto, il fuoco più caldo di questa guerra mondiale. E dunque, per malheureusement, sfortunatamente, questo epicentro si trova in questi nostri paesi. No, sfortunatamente per noi, non voglio mandare quell'epicentro da altri, non è questo. E dunque tutte queste determinazioni sono importanti per capire questo. Il Libano, lo schieramento è diventato chiarissimo. Forse da molto tempo le cose non sono state così chiare. Io conosco il Libano da moltissimi anni, da più di 20 anni. Ci lavoro e ci vado e tutto questo. E non ho quasi mai sentito che una situazione è così poco determinata da elementi extrapolitici, da elementi confessionali, comunitari, cose così. Oggi lo schieramento è questo, e sull'atteggiamento confronte dell'imperialismo americano e delle scelte sociali, economiche, di resistenza, e lo schieramento politico, diciamo, l'opposizione e il governo. Nel governo c'è il principale movimento sunnita, il Corrente del Futuro, c'è due partiti di estrema destra cristiana, c'è la sinistra democratica che, diciamo, sono ex comunisti, diciamo, se decidiamo abusivamente che il Partito Comunista Libanese assomiglia a Rifondazione, questi assomiglierebbero ai DS, diciamo. Ma boh, è un paragone un po' abusivo, però così, perché e questi sono nel governo, in questo governo, il principale partito druso, il RSP di Jumblatt, è dentro questa coalizione della maggioranza governamentale. Nell'opposizione c'è Hezbollah e Amal, c'è il Corrente Patriottico Libero, che la formazione che ha avuto il più gran numero di voce cristiane nelle ultime elezioni del generale Michel Aoun, anche se lui dice e vuole che il suo corrente non sia confessionale. Ci sono qualche non maroniti e la sua ambizione è di farne una corrente laica, ma nella realtà è principalmente cristiana. C'è il Partito Comunista, c'è il Movimento del Popolo, che altre cose, c'è armeni, una minoranza, un'organizzazione minoritaria di drusi, di Arslan, e molte cose così. Dunque sono lo schieramento, i due campi sono campi trasconfessionali. E questa è una cosa assai nuova, non è, ci sono state delle cose così, però fragili e che non hanno durato e che non hanno determinato realmente la cartografia politica del paese. Oggi la cartografia politica è questa, e le forze, diciamo, vicine agli Stati Uniti d'America provano, fanno di tutto per andare a contrario di questa realtà, fanno di tutto per trasformare questo schieramento politico in un confronto confessionale e etnico. L'obiettivo è fare come l'Iraq, realmente. L'obiettivo è fare in modo che questo paese e che i paesi dove c'è una resistenza reale si disintegrano in guerre etniche e confessionali, e dunque diventano una specie di magma dove la gente si uccide l'una e l'altra, controllabile facilmente. Anche se non è controllabile, se si uccidono fra loro non è un gran problema, piace a tutti. Quello che sta succedendo oggi, e di cui non si parla molto, è un proseguimento, credo, un proseguimento di questa resistenza molto sorprendente, questa resistenza molto sorprendente dell'estate scorsa, si sta proseguendo. Oggi c'è la resistenza i libanesi stanno resistendo a quelli che provano a provocare la guerra civile nel paese. La guerra civile oggi, come lo dice da qualche parte Walid, credo, la guerra civile sta diventando come una bomba atomica, sta diventando un'arma di distruzione massiccia e uno dei, forse l'arma preferita dagli Stati Uniti dappertutto nel mondo, dove c'è una situazione che non è completamente controllata da loro e che non riescono a controllare completamente, invece di buttare una bomba atomica che adesso non piace moltissimo, mandano gli ingredienti per far scoppiare una guerra civile. Oggi la resistenza è resistenza a questo, veramente. Nell'ultimo 1° dicembre ha cominciato questo movimento di disobbedienza civile, iniziato dall'alleanza dell'opposizione di cui parlavo prima. Hanno chiamato la gente a venire in una manifestazione permanente, una manifestazione poi che continua con un presidio permanente nel centro città di Beirut. Le due prime manifestazioni erano enormi veramente, uno intorno a le cifre sono molto molte diverse secondo gli schieramenti, però la prima infatti le cifre sono differente tra l'esercito e la polizia, che l'esercito e la polizia in Libano, forse ne parleremo dopo, è anche una cosa complicata, sono schierati in modi diversi, diciamo. Erano manifestazioni enormi, non voglio dire delle intorno al milione, a diciamo 300.000 di marge fra 700 e un milione, e intorno al milione e mezzo forse di più per la seconda, e era una cosa molto molto molto nuova, veramente molto nuova, non solo per me, molto nuova per i libanesi. Perché c'erano le manifestazioni e poi la maggior parte della gente torna a casa perché lavora, perché ha delle obbligazioni, perché non può rimanere 24 ore lì in centro città. Però decine di migliaia di persone dormiva lì, decine di migliaia. Io ho dormito parecchie volte lì, era una cosa stupenda anche per i libanesi, non ci credevano loro stessi, la facevano e non ci credevano. All'inizio era una cosa molto strana, all'inizio vedevi delle tende che si mettevano, sono delle piazze enormi, molto grandi, ci sono due piazze vicine l'una all'altra, molto grande, e in queste piazze c'erano delle tende gialle lì, giallo è il colore di Hezbollah, delle tende arancione lì, che è il colore di Corrente Patriottico Libero, delle tende verde, che era questa organizzazione sunnita minoritaria, che era alleata, si chiama Jabhat al-Ahmar al-Islami, fronte di azione islamica, Gli armeni che sono rossi e dunque si confondevano con i comunisti, colori vari così, c'era una cartografia strana di gente così e c'erano gente realmente, maggior parte di gente, c'erano gente che venivano dell'Arabia, un posto che si chiama così, che è un posto cristiano assai borghese. E altre che venivano delle periferie sud di Beirut, che è molto povera e maggioritariamente sciita, e sono gente che non moltissima gente non si vedeva. Io vedevo gente che mi diceva che è la prima volta che parla con un sciita. Ragazza, e diceva, era contenta, stupita, e viceversa. E poi, giorni andando, vedevi che i colori si mischiavano, realmente. E poi vedevi delle tende dove c'era scritto, Khaymat Wahda Watanية, che vuol dire, tenda di unità nazionale. E vai a chiedere così, vedi dei ragazzi, uno che viene da un villaggio del sud, l'altro che viene dalla Bekaa, e l'altro che viene da un quartiere è lì, e ti dicono, ok, io sono sciita, io sono maronita, io sono non so che, e ci siamo conosciuti qua, siamo diventati amici, abbiamo deciso di fare delle cose così. E poi parlavano, vedevi, gruppi che danzavano la dabka lì, altri che facevano la preghiera lì, un po' surrealista, una situazione molto surrealista, e vedevi che la gente era molto marcata, soprattutto i giovani che sono quelli che dormivano più lì. Io credo realmente che la loro identità sarà segnata per sempre di questa esperienza. Erano quasi impazziti. Credo che questo cambierà molto il volto del Libano, sapendo che queste manifestazioni e questi presidi hanno coinvolto, non so, forse più di 2 milioni di gente, forse di più, in tutto questo tempo, in un paese dove ci sono 4 milioni. Fate un po' il paragone, eh. Se eravamo in Italia, cose sarebbero i cifri? Ecco, e politicamente l'espressione politica di queste cose, che non erano così, non è un miracolo, non è una cosa per caso, non è realmente una realtà politica, una realtà profonda, i libanesi non hanno fatto l'esperienza della guerra civile, hanno fatto l'esperienza delle guerre etniche, hanno fatto l'esperienza dell'occupazione, coloniale. Hanno fatto molte esperienze e lo sanno, dunque c'è una resistenza reale, cosciente, anche se non si sa esprimere da tutti, però realmente cosciente, e questo deve sparire, questo non è contraddittorio con l'ordine mondiale e l'ordine regionale. Ecco, non so, io sono troppo lungo, credo. Forse continuiamo dopo se ci sono domande. Volevo dire una cosa per problematica. Oggi la strategia principale degli americani nella regione è basata sul fatto di approfondire e di far scoppiare un affrontement, un scontro sunnita-sciita. E questo l'asse principale in tutta la regione. hanno riuscito per gran parte in Iraq. Anche in Palestina, dove non ci sono sciiti, c'è questo problema. Io vedevo una manifestazione del Fatah, dove il slogan era Hamas sciita. E questa cosa è una cosa che veramente si sta messa davanti così da molti paesi, dall'Arabia Saudita, dai Giordani, e le responsabilità sono di tutti, perché la cosa non è così semplice, la cosa è molto problematica. La politica dell'Iran in Iraq è una politica problematica, realmente, che dà fianco a queste tentative, che permette tutta quella serie di critiche, non solo dentro Israele, ma anche nel Pentagono, che hanno portato fino alle dimissioni di Rumsfeld. Cioè, non c'è soltanto il fallimento è stato il fallimento di una idea della guerra, dal punto di vista proprio della tecnica militare, comporta che gli Stati Uniti devono ripensare la loro idea della praticabilità dello strumento militare, almeno dovrebbero ripensare, ma diciamo, la logica, la Casa Bianca non ci ha abituato a molte cose che logiche non sono, e quindi aprire anche delle prospettive forse differenti e magari più caute, per cui con più spazio per la politica e meno per le armi. Quindi questo è un punto, secondo me, abbastanza interessante, anche perché si sta riproponendo in Iraq, nonostante gli Apache, i satelliti, i carri armati, eccetera, eccetera, eccetera, non riescono a venirne a capo. È forse la rivincita in un certo senso, se vogliamo, è la rivincita degli eserciti di popolo, con alcune però sfumature, rispetto ai guerrieri professionali, come sono i soldati occidentali addestrati all'uso delle tecnologie più moderne, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà anche l'esercito israeliano è, purtroppo, in un certo senso, un esercito di popolo, però è una vittoria anche in questo senso, che quindi alimenta l'idea che resistere non solo è possibile, ma porta anche dei frutti. E da questo punto di vista credo che non abbiamo visto durante il Libano tutte le analisi militari, che i plastici, le cose che c'erano durante la guerra dell'Iraq, un po' perché era, diciamo, frustrante, ed è stato frustrante. Cioè, Israele ha perso milioni e milioni di dollari in attrezzature e si è reso conto che non basta questo per farla franca. Quindi da questo punto di vista le conseguenze, anche a medio-lungo termine, che è il tempo in cui in genere pensano i militari, sono abbastanza importanti. Penso che se la guerra in Libano fosse andata più liscia, più facile, forse anche quella eventuale contro l'Iran sarebbe più semplice. Dopodiché io schivo completamente le altre due domande, perché non sono in grado di rispondere, e ricevo il microfono a Omeya. Sarò molto disciplinato neanch'io. No, vorrei un po' proseguire su questa cosa che è molto importante della guerra stessa, che ha cambiato molte cose. Comincio col punto con cui non sono d'accordo con te, quello del consenso. In Israele c'era un consenso completo della guerra, il dissenso non era sulla guerra, era sul fatto di averla fatta male. L'unica manifestazione che è stata chiamata da qualcuno che conosco benissimo, che conoscete forse, un gruppo di quattro persone, fra cui Michel Warshawski e altri, erano 300, e lui ci diceva: che erano 300 perché non c'era nessuna possibilità di mobilitazione oltre questo, che anche gruppi e organizzazioni che che potenzialmente potevano essere contrari alla guerra, erano entrati nell'unità nazionale, erano completamente. E dunque il dissenso ha cominciato quando le sconfitte sono apparite. Non erano d'accordo con le sconfitte, non con la guerra. E questo è un enorme problema politico su cui si deve riflettere, credo. Poi la guerra stessa è una guerra, io non so come parlarne, perché è una guerra che a me ha colpito moltissimo. Non so come per un credente, per qualcuno che crede a Dio, uno si dice questa guerra è miracolosa, ma io suppongo che qua ci sono gente che non sono credenti. Per quelli che non sono credenti e che non vogliono fare un discorso con una referenza metafisica, come si può chiamare? Io l'ho vista giorno per giorno questa guerra, veramente non sto facendo teorie. Forse è stata la stessa cosa in Vietnam, però io non ho vissuto in Vietnam. E l'esercito più importante della regione è, ci dicono, fra i 4 o 5 più importanti nel mondo, con un armamento molto sofisticato, forse più sofisticato mai usato in un campo di guerra. E in fronte i combattenti di fronte, quelli che erano sulla linea di fronte, non parlo di quelli che erano su un po' più indietro su rampe di missili, questi erano fra 400 e 600. 600 persone al massimo hanno sconfitto questo esercito. Non erano da soli perché questa resistenza non era la resistenza solo di Hezbollah, la resistenza militare e armata era il Hezbollah, non c'era altro. Anche se nella seconda fase abbiamo assistito a riunioni in cui c'era la resistenza islamica, ma anche altri gruppi comunisti, per esempio, gruppi che avevano delle rete vecchie, perché i comunisti avevano fatto la resistenza negli anni 80 e avevano ancora delle rete in villaggi e città, si sono incontrati per cominciare a coordinarsi per l'organizzazione di quello che chiamavano la seconda fase. La seconda fase è una fase che non è mai arrivata. La seconda fase era se l'esercito israeliano passa. Quando se resistiamo, però sono enormi, forse passeranno, quando passeranno e prenderanno il territorio, come facciamo a fare la guerriglia e la protezione dei villaggi, tutto questo. E questo ha cominciato a essere organizzato in una maniera che non coinvolgeva solo i Hezbollah. Però la guerra che ha avuto luogo contro l'esercito era il Hezbollah. Però dietro a questo c'era una parte enorme della popolazione libanese e soprattutto della popolazione del sud Libano, che uno degli obiettivi principali dell'offensiva israeliana era di spaccare questo. Loro si dicevano, è una cosa molto classica di guerriglia o di guerra popolare, questi combattenti sono come i pesci nell'acqua nella popolazione del sud. L'unico modo per spaccarli è di vuotare l'acqua. è per questo che hanno fatto dei bombardamenti così violenti, che hanno fatto dei massacri così, che hanno distrutto dei villaggi dove era chiaro che erano anche costruzione civile. Cana non è per caso. Non è per caso Cana. Cana è un simbolo mirato. Cana per tutti, per la popolazione libanese della regione e tutto questo, è il simbolo del massacro israeliano che ha avuto luogo nel 97. Era un simbolo, volevano colpire un simbolo nella stessa maniera. Uccidiamo di nuovo dei civili nel posto che è per voi il simbolo del massacro dei civili. Perché? Non è perché sono particolari. Non è perché sono dei mostri. È strategia militare. È far paura e di terrificare la popolazione per far andare la popolazione. Perché la popolazione si dice questi possono fare qualunque cosa. Questi per far vuotare il Sud Libano. E hanno distrutto tutto. Ci sono stato secondo l'ONU più di un milione di profughi nella scala libanese. Vedete a che cosa corrisponde il quarto della popolazione, che è andata un po' dappertutto, e era un problema enorme anche politico dopo. Cioè ti dicevano questo cambierà completamente gli equilibri politici, sociali, tutto questo libanesi, e farà un problema gli organismi internazionali ci dicevano c'è bisogno, se tutto va bene, fra 6 mesi e 3 anni per farli poter cominciare a farli tornare a casa. Quando c'è stato il cessato il fuoco, dopo un po' più di 10 ore c'è stato il discorso di Said Hassan Nasrallah, e dopo 24 ore sono tutti tornati a casa, tutti. La popolazione del sud è tornata. Quando chiedevi? 24 ore. 24 ore dal cessate fuoco, sì, dopo hanno cominciato, sì, c'erano delle macchine dall'inizio, è vero, però la grande popolazione dunque è tornata. Quando chiedevi alla gente, ma c'è ancora la tua casa? Dice no, è distrutta. Ma dove l'hai? Dice ci vado. Io ho visto durante la guerra, c'erano profughi dappertutto, nei giardini pubblici, nelle scuole, dalla gente, un po' dappertutto. C'era un parco pubblico nel centro di Beirut che si chiama il Parco delle Sanaya, dove c'erano moltissimi profughi, tende, cose così. E c'è un ricchissimo Emirati, degli Emirati Arabi, che è venuto a fare dell'umanitarismo e dunque aiutarli, e lui ha portato delle tende per dargli delle tende. Eravamo lì e non capiva perché la gente rifiutava le tende. C'era un problema. Quando chiedevi, ti diceva la mia nonna, sono gente che vengono dal sud. La sua nonna ha visto arrivare i palestinesi nel 48. I palestinesi hanno preso delle tende e sono ancora profughi. Per noi le tende vuol dire rimanere profughi per 50 anni. Non vogliamo, rimaniamo così. Ecco. Questo obiettivo principale non è riuscito. E adesso tutti lo sanno, no, io non sto dicendo segreti. Adesso la resistenza è ancora come un po' pesce nell'acqua nel sud. E per questo che la presenza della UNIFIL non è così problematica. ora non danno tanto fastidio, non sono capaci, diciamo, di dare tanto fastidio, non è il problema principale. Perché la resistenza c'è ancora? Perché le armi della resistenza oggi sono più importanti di quando, di prima della guerra? Perché l'esercito coopera con la resistenza? E questo non lo dice il Hezbollah, lo dico io. No, questo che sto per dire. Al limite la UNIFIL, se vuole assolutamente rimanere, se scoppia la guerra sono 12.000 ostaggi, possono servire. La popolazione ci dice questo. No, e questo per dire che gli obiettivi di Israele sono stati sconfitti. Non era solo questo l'obiettivo, c'erano molti obiettivi. E la guerra praticamente si è passata in maniera incredibile. Io ho fatto un giro verso la fine, l'ultima settimana della guerra in Bent Jbeil, che è la città di Walid. Bent Jbeil che è una città che è stata distrutta più di 80%. Radio Facile, una cosa stupida, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, rad